Bici Libera Tutte è un progetto che è nato da una costola di un progetto precedente che era Bici Libera Tutti, un metodo per insegnare agli adulti ad andare in bicicletta, perché ci siamo resi conto come associazione Salve Ciclisti che tante persone che oltre l'età consona non sanno andare in bici, oppure hanno disimparato in seguito magari a un incidente, a un trauma, a un cambio di abitudini. E quindi abbiamo raccolto in questi anni veramente decine e decine di persone, veramente dai 6 ai... Il nostro allievo, diciamo, più grande aveva più di 80 anni, quindi un metodo adatto a tutti che è stato creato da una nostra attivista che si chiama Sara Poluzzi. In base da questo progetto sono nate delle richieste spontanee da parte di centri di accoglienza, mediatori culturali, persone che hanno a che fare con soprattutto donne che provengono da paesi in cui magari la bicicletta non è un mezzo così diffuso, soprattutto tra le donne che per ragioni culturali non imparano nel proprio paese ad andare in bici. Ci hanno chiesto, insomma, di poterle seguire. Chiaramente per un progetto rivolto a questa fascia di beneficiarie occorrevano anche delle competenze in più, quindi ci siamo rivolti a Cospe Onlus e Mondo Donna e abbiamo creato questo progetto Bici Libera Tutte, che è stato finanziato dal Comune di Bologna grazie ai fondi Ponmetro, e grazie a questa collaborazione, diciamo, trasversale tra più realtà siamo riusciti a mettere in piedi un sistema di tutor volontari che sono stati formati a loro volta da mediatori culturali e quindi insegnanti volontari, e anche un gruppo di beneficiarie che provengono appunto da queste case di accoglienza, da queste realtà, persone insomma in situazioni di marginalità, non solo migranti. E in più abbiamo anche una squadra di volontarie e volontari della ciclofficina che si preoccupano di sistemare anche delle biciclette che poi vengono consegnate a queste donne alla fine del percorso, in modo che loro non solo imparano ad andare in bici, ma alla fine del percorso hanno anche una bici che è tarata sulle loro esigenze, quindi con il seggiolino per chi ha figli in età, col cestino, col portapacchi, perché l'obiettivo del progetto non è solo insegnare ad andare in bici, ma dare a queste donne l'autonomia e la libertà per spostarsi, per andare a lavorare, per muoversi, per fare la spesa, per andare a prendere i bimbi a scuola, quindi dargli una nuova opportunità di inserirsi in modo più facile nella quotidianità della città, che sappiamo è difficile per tutti, magari ancora di più per queste nuove cittadine. Quindi è un progetto importante, è un progetto anche di lunga durata, che dà la possibilità di emanciparsi a queste donne e di potersi muovere in modo autonomo. Sì, nostra intenzione è quella di continuare. Adesso abbiamo fatto, diciamo, la prima parte del progetto, che prevedeva l'insegnamento a 20 donne che in questi giorni appunto stanno ultimando i corsi con i loro tutor, ma vogliamo assolutamente proseguire, quindi noi continuiamo a raccogliere bici in donazione, quindi se avete una bici da donare potete portarla alla velostazione Dinamo in via Indipendenza 71/L, perché poi la porteremo in ciclofficina, la sistemeremo per regalarla a queste donne. Quindi stiamo continuando a cercare volontari anche come tutor, potete scrivere a info@salvaiciclistibologna.it e sicuramente l'anno prossimo replicheremo, magari anche senza Covid che ha un po' rallentato le attività, ma siamo riusciti comunque a portare a termine il progetto. A proposito di Dinamo, volevo complimentarmi per avere vinto ancora il bando di assegnazione dei locali sotto la scalinata del Pincio e anche per aver accolto all'interno dell'associazione anche altre associazioni che si occupano di clima, che si occupano di mobilità sostenibile, come l'Altra Babele, come altre associazioni, Salva Ciclisti e altri ancora? Sì, come Salva Ciclisti Bologna abbiamo partecipato naturalmente al bando che è stato fatto dal Comune di Bologna per l'assegnazione degli spazi che saranno velostazione dopo i lavori che sono adesso in corso e che permetteranno di usare lo spazio in maniera più agevole, perché ci saranno impianti di riscaldamento, in modo che anche la parte eventi potrà continuare durante l'inverno e durante la stagione meno calda. Ci saranno delle aule, dei laboratori, creeremo degli spazi per i bambini, per gli adolescenti, per le famiglie, perché crediamo che oltre ai servizi bici, che sicuramente sono il nostro fiore all'occhiello e che vogliamo continuare a dare, parcheggio custodito, riparazione, vendita, eccetera, sia importante anche creare cultura e momenti di aggregazione intorno ai temi della sostenibilità ambientale, per questa sfida che ci vede tutti coinvolti per contrastare il cambiamento climatico. Quindi ci sembrava necessario che, perché Dinamo diventasse veramente la casa di tutte le associazioni impegnate in questo ambito, coinvolgere anche appunto quei soggetti che lo fanno da sempre, con cui abbiamo sempre collaborato: Lega Ambiente, Associazione Yoda del Festival Itaca, appunto l'Altra Babele, Montesole e tante realtà sul territorio che troveranno uno spazio di azione, divulgazione e aggregazione all'interno della velostazione.